Merito a questi ragazzi, sono stati straordinari. Sotto tutti i punti di vista, hanno fatto una stagione bella, intensa, faticosa, però sono sempre stati sul pezzo. Questo mi è piaciuto tanto perché dalla prima giornata abbiamo tirato, diciamo, il gruppone. Ha paura di perdere il professionista o ci mette la mano sul fuoco e Conte ci sarà? No, ci metto la mano sul fuoco, questo con tutto il rispetto che va al professionista, perché conosco l'uomo. Tutti convocati di Carlo Genta. Allenatori di calcio dal 1996 a oggi. Dunque, 1986 a oggi, sulle principali panchine europee. Real Madrid 21 allenatori. Barcellona 12 allenatori. Juventus 12 allenatori. Inter, per quel che può contare, dicevo prima, 22 allenatori. Milan 10 allenatori. Manchester United, Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson ha annunciato oggi il ritiro dopo quasi 27 anni di Manchester United, dopo 38 trofei vinti, tra cui 13 Premier League, 5 Coppe d'Inghilterra, 2 Champions League. L'elenco è interminabile, naturalmente. Non sapevamo quale scegliere da mettere sulla base, ovviamente, Princess of the Universe dei Queen dal film Highlander. E oggi parliamo di due grandi personaggi. Il primo è ovviamente Sir Alex Ferguson, l'altro è Mario Balotelli, perché qui con me c'è, lo ringrazio tanto, Raffaele Panizza, uno dei due autori del libro Balotelli a cresta alta appena uscito. L'altro è Gabriele Parpiglia, che poi sentiremo. Ciao, grazie, Raffaele. Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, adesso abbiamo in linea. Allora, quanti italiani hanno giocato nello United? Ah, mannaggia, proprio a bruciapelo così. A bruciapelo. No, ricordo un ragazzo primavera che era tra, però non so più di chi sia. Maceda, Giuseppe Rossi, è il primo, però è il primero. Non il sei, primo di tutti. Non sei. Massimo Taibi. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Allora, rossonero. Cuore rossonero, certamente. Ancora cuore rossonero, Massimo? Rosanero e rossonero. Rosanero e rossonero, ma sai che mi è arrivato un messaggio che mi scrive: avrei detto che Ferguson prima di ritirarsi facesse un'esperienza al Palermo tanto per provare l'ebbrezza dell'esonero. Ci poteva stare. Che ricordo hai tu? Domanda che oggi ti hanno fatto già in 367, io sono 368. Sì. Ma il ricordo di una persona molto, molto forte, una persona che sapeva il fatto suo, una persona molto preparata e soprattutto la persona che spaziava a 360 gradi, perché il suo ruolo era manager, non solo allenatore, per cui si occupava anche di fattori societari e non. Sì, quindi grandissimo carisma, l'allenatore più carismatico del calcio insieme a José Mourinho, secondo me. Sì, lui era un carismatico, ma allo stesso tempo era uno che comunque parlava, colloquiava con la squadra, con i ragazzi, con i giocatori, solo che come tutti d'altronde lui in particolar modo era molto esigente. Com'era quella storia dell'asciugacapelli di Beckham? Non mi ricordo. Non c'ero io, però tu non c'eri, però ti faceva l'asciugacapelli. Tu non ne hai mai beccati di asciugacapelli da Sir Alex? Sì, ho beccato due o tre cazziatoni duri. Duri duri, insomma, me li ha bagnati e asciugati in 10 secondi. Massimo, ti chiedo ancora questo, visto che adesso lavori con le giovanili del Modena. Sì. Beh, sarà banale, però cosa ti sei portato da Manchester? Ma da Manchester più anche le altre squadre dove sono state in Italia, no? Perché Atalanta, Milan, l'organizzazione, il voler imporre un'organizzazione rispetto dei ruoli, questo in Inghilterra era fondamentale, e soprattutto cercare di guardare sempre più, diciamo, più in basso, no? Le sì. più piccole, cercare di farli crescere nella tua società, perché non puoi prendere a 15-16 anni che non è facile, ma cercare di farli crescere guadagnando dai 7-8 anni. Massimo, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Ciao, Massimo Taibi. Due personaggi non da poco quelli di cui parliamo oggi, no? Sir Alex Ferguson, che è uscito dalla cronaca, e Balotelli, che è uscito pure dalla cronaca per questo libro che è ora nelle librerie e che poi ci presenterà lo stesso Balotelli, e che è uscito da un appuntamento appunto con Raffaele Panizza, che è collega Panorama. Max, non ha bisogno di presentazione, che aveva già scritto un altro libro. Sì. Negrazzurro. Cos'è cambiato? Quando l'hai scritto? 4 anni fa ormai, quasi. Allora, cos'è cambiato da Negrazzurro a Crest'Alta? Ma nella percezione degli altri verso di lui, devo dire, molto poco. Io, è come, in qualche modo, devo dire, infatti la voglia di riscriverlo è stata proprio una sorta di urlo. Sai quando ai bambini si dicono le cose 4 volte, no? Dico, sì. Allora, avete capito che è così, no? E quindi c'era la voglia di spiegare, diciamo, un ragazzo che non è così com'è, qualsiasi sia il giudizio sul com'è, perché gli è arrivato un assegnino, perché gli è arrivata la Bentley, perché è strutturalmente un ragazzo dall'impalcatura fatta di materiale molto poroso e molto fragile. E quindi la mia voglia 4 anni fa era: andiamo a raccontare e a parlare con tutti quelli che l'hanno vissuto da vicino e capiamo la genesi di questo strano cucciolo diventato uomo, che secondo me è un super giocatore ed è un personaggio, uno dei pochissimi personaggi davvero interessanti che hanno qualcosa da dire, che sono anche mediaticamente così, di quelli che si dice bucano lo schermo, quando parlano non sono mai banali, come Mario Balotelli. Prima del traffico, visto che stavamo parlando di Ferguson, chi va a allenare il Manchester United? Vabbè, va a allenare Mourinho. Matematico, sì. Matematico? Sì, io adesso non so quanto tempo abbiamo, insomma, ci ho passato una giornata intera un mesetto fa, e lui si esprime solo in inglese col suo circolo di persone, lui con la testa è là, non è uno da non essere riscaldato. No. È troppo telefonata, quando è così è uno sviare classico. Sì. Sarebbe la panchina che sogna da... Va allo United e ne rovinerà il gioco. Perché... secondo me bisogna fare così. Cioè, secondo me l'errore che fece l'Inter, poi ci fermiamo, l'errore che fece l'Inter dopo il triplete, via l'allenatore, un allenatore così caratterizzante, così monopolizzante come Mourinho. Lo stesso errore ha fatto il Barcellona quest'anno, via Guardiola, che era il papà di quella squadra. Non esiste continuità, serve rottura, questo a mio parere. Tanto Raffaele Panizza rimane qui con me e torneremo a parlare di questo libro, di Balotelli e di tutto quello che volete al numero verde 800 24 00 24. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltriti, regia traffico, e poi di nuovo qui. I don't call him Alex o Sir o Mister o I call him boss. Tutti convocati. Allora, Alex Ferguson che molla lo United, Mario Balotelli, di cui c'è questo nuovo libro a cresta alta, e qui c'è l'autore, uno dei due autori, cioè Raffaele Panizza. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Mi sembra che abbiamo tutto, no? Per la puntata di oggi, compresa la presentazione di chi? Di Balotelli, no? E l'altra cosa era, è uscito un libro su di me, mi sembra, no? Non so come si intitola, penso Cresta Alto o cose così. Io non capisco come in Italia sia possibile fare un libro così senza neanche interpellare a me, e ci sono scritte tante di quelle cazzate che è una cosa incredibile. Non so veramente come ha fatto a farlo, mi fa schifo. Allora, che Raffaele dire. Fanizza. No, la battuta più facile è che le cazzate, è vero, ci sono scritte, ma sono le sue, sono quelle che ha fatto lui. Ovviamente, sì. Questa è la prima. Poi no, ovviamente, adesso poi fa anche un po' tenerezza che faccia finta di non ricordarsi il titolo, no? Visto che mi sembra a cresta alta, no? Ovviamente lo sa benissimo. Lo sa benissimo. Sì, sapeva che il libro sarebbe uscito. È ovvio che questa è un'inchiesta giornalistica, però... Cioè, poi si possono scrivere libri, insomma, facciamo questo mestiere e quindi... L'avrei invitato a restare un po' di più in Inghilterra per vedere cosa sarebbe accaduto di pubblicistica nei suoi confronti. Io ritengo che questo sia un libro estremamente veritiero, ma anche molto delicato e rispettoso. Insomma, non si vanno a cavalcare gossipate facili. Un esempio su tutti: un famoso Chelsea-Inter in cui lui non era convocato perché per problemi, per un infortunio, e 3 giorni dopo uscirono delle foto lui con donne, amici in via Vittor Pisani a Milano, che... e questo articolo era sullo scandalo di questo ragazzo che, mentre gli altri sputavano sangue a Londra, lui andava in giro con la Ferrari. Io sono andato a vedermi gli infofile di quelle fotografie, sono tutti oltre mezzanotte, quindi a partita finita, col ragazzo che non era obbligato a stare chiuso in casa se... E quindi io sono, credo di essere uno che è andato a vedere e a sfatare determinate faciloneria, no? Quindi... Però adesso l'ho detto con sto tono, sembra che mi sto difendendo. No, assolutamente. Però insomma, non è così. Quindi è un libro documentato. Sì, sì, come... un'inchiesta giornalistica. È un'inchiesta giornalistica, come si fanno. Noi sappiamo che, insomma, ce lo insegna la legge, come i personaggi pubblici abbiano dei limiti anche di tutela della privacy, che sono diversi rispetto a quelli dei comuni cittadini, ed è del tutto legittimo e anzi giusto fare delle inchieste giornalistiche che abbiano interesse per la pubblica opinione. E Balotelli, cioè, non me lo insegni tu, è un personaggio che divide, è un personaggio che fa parlare, è un personaggio mediaticamente, come dicevo prima, che spacca. Assolutamente, devo dire, un personaggio tenuto adesso in una bella bolla compressa dal Milan, una volta ci faceva divertire un po' di più, e io ritenevo che fosse anche la sua grande modernità quello di essere in strada insieme ai comuni mortali, al posto che all'ultimo piano del Principe di Savoia, come faceva Ronaldinho, con l'ascensore che saliva e scendeva spesso carico di esseri umani. E quindi quella era un pochino anche la sua particolarità, che lo faceva un campione molto moderno. E questo però, a vivere un po' in strada, a prendere anche qualche schiaffone, no? per certi eccessi, l'ha reso anche mentalmente veloce. Si vede che è un ragazzo che dice delle cose quando è chiamato. Come in causa? No? Non ha imparato la parte, si rifiuta. Come no? Ma secondo te ci è o ci fa il cattivo? Tu, visto che comunque hai fatto questo inchiesta. Il bad boy lo è o lo fa o recita un personaggio? Ma voi vi ricordate quando era, non ricordo se fosse a Cracovia, che c'era un coro che cantava per strada? E cantava una canzone popolare polacca, e lui dalla macchina ha fatto fermare l'automobile, e con gli occhi del bambino che vede Babbo Natale in prima elementare si scioglieva di fronte a queste voci. Ma che cattivo, no? È un pochino in balia di se stesso, avrebbe bisogno, secondo me, di un continuativo e attento accompagnamento psicoterapico per cercare di calmare e di non far scattare la bomba orologeria che ha nel cuore. Ma detto questo, la cattiveria non sa neanche cosa sia. Non sa neanche, ma non credo proprio che sappia. Beh, noi qui alla D24 conosciamo bene Cristina, che ha lavorato qua per molti anni, che è sua sorella. A proposito di cori, ce n'è un altro che vi facciamo sentire, che arriva da Pio e Amedeo, gli ultra dei VIP alle Iene. Amico su Balotelli di Palizza e Papillo. Chi è? Di Papillo e Panizzi. Balotelli e mani, dai, ti diverti solo se leggi sto libro. Sarà un libro di successo se te lo metti sopra il cesso. Ormai è un fenomeno pop il libro. Allora, tra l'altro posso anticipare che ne arriverà una cosa simile fatta dai Soliti Idioti. Ah. Sì, nella loro versione ragazzi di periferia, no? Certo. Qualche parolaccia in più, credo, quindi non la manderemo, ma... No, manderemo anche... No, vabbè, insomma... Qua... Sì, magari a certi orari. Maurizio Caserta. Ma Maurizio Caserta, buongiorno. Dove sta? No, io sento solo un rimbombo della mia voce e basta, non sento Maurizio da Caserta. 800 24 00 24. Ciao, sono Mauro, scrive un ascoltatore. 349 238 6666. Ciao, sono Mauro. Ma Balotelli non è un cattivo, non è negro, è solo uno stronzo. Non è che non è un personaggio simpatico, è un po' come Raglio, è un po' come Mourinho, no? Sono quei personaggi che o ti piacciono da morire, o ti interessano, o non so, dici non lo rispetto come grande calciatore, eccetera, oppure è uno di quelli che ti... Che fai fatica a sopportare. I giudizi di questo tipo, adesso voglio dire, sono sempre un pochino certo. Gli ultra della tastiera, sai, ecco, sai, questi ultra, che dicono ste... chi parla di pancia è sempre, oltre che il benvenuto, è anche la regola. Però, si pensava che i touchscreen rendessero più difficile certe... No, però è la realtà, che comunque è uno che divide da questo punto di vista, cioè è uno che sta antipatico a molti. No, ma io infatti ritengo che sia legittimo non amarlo. Bisogna un attimo sapere, bisogna sapere che il 2 aprile 2006 questo ragazzo debutta con il Lumezzane a Padova in una gara importantissima. Il Lumezzane non solo stava fallendo, ma stava retrocedendo in C2. Lui entra, inizia a fare le sue finte alla Ronaldinho, l'elastico, perché lui la notte si studiava l'elastico, insomma fa fuori 2-3 34enni da Serie C, e lo stadio Euganeo inizia a fare il bu delle scimmie e delle banane a questo ragazzino di neanche 16 anni che si ritrova il suo debutto nel calcio subito infangato da cori di questo tipo, tant'è che lo stadio poi venne squalificato, il campo del Padova. Quindi lui a quel tempo si chiamava ancora Barrois, che era il suo nome naturale, e lui si affaccia sul balcone del suo sogno con una curva che gli dà in Veneto. Ovviamente non, assolutamente questa non è una generalizzazione sui veneti, sarebbe stupido da parte mia, semplicemente stupidità di quelli che abitavano quella curva, accaduto. Lì, come stupidità di tanti che abitano gli stadi italiani, no? Quindi rendiamoci un attimo conto di quali sono i cucchiaini di miele, no, di fiele che lui ha assaggiato subito. E sono cose che sono dolorose. Non so se da italiani vi è mai capitato di andare in Svizzera ed essere trattati con una certa sufficienza. A me è successo ancora l'anno scorso sul treno del Bernina, no? Che mi sembrava di essere il Baluba. È una cosa che fa dolore fisico, cioè uno dice frustami, ma non mi far capire che sono inferiore per la mia appartenenza. Sì, no? Certo. È un dolore indescrivibile. Le persone cattive, gli ignoranti picchiano da là dove fa male. Maurizio Caserta, vediamo se ce la facciamo. Salve, sono Cinta? Sì, sono io, presente. Salve, buongiorno. Salve. Grazie per avermi convocato alla vostra trasmissione. Di niente. Ecco, volevo semplicemente fare un paragone nei limiti del possibile, no? Nel senso che qualche settimana fa si parlava del Maradona che faceva dentro al campo cose straordinarie, mentre mi ricordo una sua affermazione che diceva che a lei interessava quello che faceva dentro al campo e fuori dal campo, chiaramente non era importante. Balotelli invece noto una cosa diciamo completamente opposta, nel senso che si parla moltissimo del Balotelli personaggio, però poi vorrei chiedere, no, a Balotelli cosa ha vinto, cosa ha fatto di così importante fino adesso, cioè vorrei capire questa cosa, cioè perché non se ne è più in televisione, si sente parlare di Balotelli, il Time addirittura me lo va a mettere nei 100 personaggi più influenti al mondo. Ecco, vorrei capire, Balotelli è un calciatore oppure non lo so, deve fare la soubrette forse? Vorrei capire questa cosa. Allora, gliela spiego, aspetti Maurizio, gliela spiego subito dopo la borsa. Però Balotelli è un po' tutte e due le cose. A me personalmente interessa l'aspetto calcistico, mi interessa quello che io vedo sul campo, e secondo me è potenzialmente il più forte giocatore italiano, potenzialmente uno dei più forti attaccanti del mondo, e questo mi interessa e mi piace di lui. Sugli aspetti che vanno fuori dal campo, quegli aspetti personalmente mi interessano un po' meno, ed è lo stesso discorso che faccio per Valentino Rossi, per Maradona, per Mourinho, per molte persone che così mi intrigano come personaggi, ma ripeto, dal punto di vista sportivo. Tutti convocati. Stiamo anche su Twitter cadendo in questioni pelose come il numero degli allenatori che sono cambiati. Allora, Sir Alex Ferguson oggi ha chiuso con il Manchester United dopo quasi 27 anni. Poi dicevo prima, Barcellona 12 come la Juventus, Milan 10, Inter 22, Real Madrid 25, ma poi c'è chi su Twitter ci scrive che in realtà sono 25 gli allenatori del Real Madrid, non sono, sono 25, non sono 21, perché Capello tornato due volte andava contato una volta solo. Vabbè, andate un po' al diavolo, fate con i vostri conti, perché un po' mi annoiano e mi sembrano anche eccessivamente faziosi. Poi, tesoro, non sei a posto. Non sono a posto, mi ha detto ieri Graziano Rossi, quindi figuratevi un po' che cosa me ne frega a me dei 21, 25, 22, 24, 23, 21, 20, però sappiamo contare, lo assicuro a chi ci scrive su Twitter. L'ascoltatore da Napoli? No, c'era? C'è più. 800 24 00 24, il numero verde per parlare con noi, e non lo vedo. Allora, ascoltatore da Napoli, ci sei? Sì, ci sono. Non so perché sei stato cancellato dal video, per fortuna non è stato cancellato da quella sedia Raffaele Panizza con cui stiamo discutendo di Balotelli. Vedo anche tanti messaggi, alcuni veramente idioti, insopportabili e incredibili in un paese ma mediamente civile, ma neanche tanto civile, mediamente civile. Altri invece interessanti, come sono juventino e dico che Balotelli per me è molto vittima del sistema ultra gossip e dei cretini razzisti della domenica, juventini compresi, magari avercelo alla Juve, Pasquale 68. Oppure c'è chi scrive: ma come fai a dire che non importa quello che dice e fa un personaggio pubblico tuo ai figli? Ricordati che l'emulazione viene spesso dalla televisione. No, l'emulazione deve venire da me, non dalla televisione. Non so come la pensa Raffaele Panizza, che di figli ne ha. Lei da Napoli come si chiama? Massimiliano, mi scusi, ma mi hanno cancellato la scritta, lei stia lì. No, dico che alla Juve è difficile che vada, perché forse è l'episodio più grave proprio di razzismo. E adesso ce ne parli di quell'episodio e di questa legge Balotelli. Ma tu cosa ne pensi su questo argomento? Cioè, io non credo che i personaggi pubblici, i personaggi televisivi debbano imprintare la vita dei nostri figli. Io credo che l'imprint debba venire prima da noi. Non sono personaggi da emulare, sono come giusto da guardare per quello che fanno sul campo. Se fanno qualche stupidaggine fuori dal campo ci si ride sopra, si fa, secondo me si sottolinea l'importanza dell'atteggiamento sbagliato. Ma insomma, non devono diventare come era ai nostri tempi, quando tutta questa sovrastruttura sui personaggi dello sport non esisteva. Li guardavi sul campo: Larry Bird, Magic Johnson, Maradona, eccetera, eccetera. Certo. No, ma poi, tra l'altro, poi lui, secondo me, può essere un punto di riferimento paradossale, nel senso che magari uno dice il punto di riferimento è Del Piero, detto che ovviamente sottoscrivo il tuo punto di vista che uno dovrebbe preoccuparsi degli adulti di riferimento nella primissima cerchia familiare, gli zii e soprattutto di se stessi, cioè demandare a uno sportivo un messaggio educativo. Ognuno è responsabile del proprio ambito. Quando Balotelli farà l'allenatore, il dirigente sarà responsabile di un messaggio verso gli iscritti, verso gli altri no. Detto questo, invece, secondo me è interessante, cioè il modello chi sarebbe? Del Piero? Adesso dico una cosa, però Del Piero è un uomo, ha fatto 25 anni in modo ineffabile, che non significa, che non è un complimento. Tu riesci a capire che cosa pensa, che cosa prova un personaggio come Del Piero? Cioè, era chiuso e distante fino all'inumanità, cioè sono personaggi siderali. Quindi a me chi mi piace? Buffon, che ogni tanto sbrocca, certo. Dice sono depresso. Voto destra, la vita è questa delle persone che incontriamo. Noi li vogliamo siderali e diciamo che sono dei modelli, poi quando li abbiamo carne e sangue e cazzate diciamo che sono dei somari. Decidiamocelo. Quello che intendo io è che anch'io vorrei personaggi nello sport, anch'io voglio personaggi nello sport. Quello che intendo io è, io vorrei 10 Mourinho, vorrei 10 Balotelli, perché ci sarebbe da discutere non vorrei 10 Messi su cui non c'è niente da dire, no? Vorrei 10 Maradona su cui che ogni dichiarazione che ti rilascia fa il titolo, perché questi sono personaggi che dividono e che fanno discutere. Dico che non è demandato loro il compito di essere esempio per i figli, perché questo è un altro discorso e questa secondo me è una stupidaggine. Massimiliano, dunque, riusciamo a chiacchierare un attimo? Sì, allora, prima cosa io vorrei dire che per me Balotelli è indiscutibile, è fortissimo, anche quello che fa fuori dal campo a me non interessa, da Juventino. Quindi, sì. Seconda cosa, io le vorrei esporre una mia considerazione. Ma Antonio Conte stesse temporeggiando perché è arrivata una chiamata dello United? Dello United? E chi se lo può aspettare? Oh, ma non lo so. Beh, vabbè, sai, Conte è un guanto, secondo me... Questo è affascinante, non credo. È affascinante. Sull'Inghilterra, cioè, visto che lui è un tecnico da furore agonistico, non è certo un ricamatore, nel calcio inglese sicuramente sarebbe un guanto che sta comodo, però insomma, dovrebbe passare l'estate a fare ripetizioni. Sì, no, non credo, ci va Mourinho. Tu sei così convinto che ci vada Mourinho? Fino a ieri era Chelsea, dici che ha preso per il naso tutti un'altra volta. Chi ha? Ma certo, vabbè, no, ma la storia del calcio, vabbè, guarda, ma... si parla di Morris, allenatore dell'Everton scozzese come Ferguson, che è uno dei più gettonati. La soluzione interna, cui io non credo, Scholes, Giggs, Neville, però secondo me non sarà questa. È chiaro che, insomma, quest'estate ci prepariamo un bel valzerone. No, non c'è dubbio. L'unica cosa, appunto, come dico, che io non sono un innamorato del calcio di Mourinho e credo che invece di Ferguson si parli troppo, appunto, per gli anni e per la coerenza e troppo poco invece per il grande calcio che faceva giocare. Chi è stato all'Old Trafford ha visto il tiki-taka long version, cioè quello che fa il Barcellona, però in 30 metri, in 5, certo. Senza togliere nulla alla grandezza del Barcellona. Ma io qualcosa toglierei, non sono un tifosissimo blaugrana, ti dico. Beh, insomma, allora facevano la stessa cosa, adoperando tutto il campo. È una velocità diversa, e comunque con grandissima qualità, perché di lì sono passati dei giocatori straordinari. Allora, abbiamo un sacco di ascoltatori con cui vogliamo parlare, io e te, Raffaele. 800 24 00 24. Giampaolo, provincia di Padova. Sì, buongiorno. Mi dica. Sono dalla provincia di Mantova, ma non importa. Intanto la saluto e le faccio i complimenti per la trasmissione e per l'equilibrio che dimostra sempre durante la trasmissione. Ma se ieri Graziano Rossi mi ha detto che non sono normale. Beh, può capitare, non si può contentare. No, perché il mio sogno è correre il TT sull'isola di Manna, e allora mi ha detto tu non sei normale, e allora... Beh, ma quello non è una questione di normalità o meno, è un'aspirazione che uno può avere, o no? Sì, insomma, presente quella corsa. Vabbè, comunque, lasciamo stare, dica. Ascolti, io ho sentito che in trasmissione c'è un signore, uno scrittore, il signor Panizza, se non erro, che ha scritto questo libro sul signor Balotelli. Ma io volevo solo fare una considerazione di questo genere. Io credo che se Balotelli non avesse avuto bontà sua dal divino questa arte pedatoria che lo porta a essere quello che è fondamentalmente in campo, quindi probabilmente anche un fuoriclasse, si sarebbe dovuto parlare di lui magari in altri termini. D'altra parte è anche vero che avete iniziato la trasmissione con l'intervento di Balotelli. Scusi, ma quali termini? Chiaramente, cioè, quello che ha dimostrato non avrebbe fatto questo rumore, cioè se non fosse stato così forte non avrebbe fatto questo certo, rumore. Certo. È questo che intende. Esatto, intendevo questo, anche perché chiaramente lo si è conosciuto molto spesso e volentieri per quanto riguarda le sue tra virgolette imprese fuori dal campo. Ed è per questo che ha dato adito alla possibilità di scrivere libri su di lui. Sì. Però cioè, l'obiezione che avevo da fare è molto semplice. Se cominciamo a dare tanta importanza a questi giocatori che comunque fanno notizia, che comunque fanno notizia anche fuori dal campo, forse perdiamo di vista quelli che sono i veri valori dello sport in genere, forse valori che in genere ha perso il calcio rispetto ad altri sport, anche perché io sono il mio piccolo un presidente di una piccola società sportiva di tennis, cioè un circolo tennis, un tennis club della provincia di Mantova. Senta Giampaolo, facciamo così, le faccio rispondere subito dopo il traffico dagli autori, perché a Raffaele Panizza, che è qui con me, si è unito anche al telefono Gabriele Parpiglia, che saluto. Ciao Gabriele. Buon pomeriggio a tutti. E allora adesso traffico e poi le faccio rispondere da loro, perché mi sembra la cosa migliore. Tutti convocati. Strade in diretta. Alle porte di Roma le code da smaltire dopo un incidente sulla A24 tra lo svincolo di via Fiorentini e quello di via Togliatti in direzione del raccordo anulare. Sempre le code per lavori da segnalare sulla A12 Genova-Livorno tra Recco e Chiavari verso Livorno. I cantieri contraddistinguono la circolazione anche a Milano in tangenziale ovest tra Viale Certosa e Baggio Cusago in direzione Autosole. Al confine di Stato, infine, vi segnaliamo che in Francia è sempre in atto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti a causa di una festività in territorio transalpino che andrà avanti fino alle 22 di domani, giovedì 9 maggio. Sono chiusi ai camion il traforo del Monte Bianco e quello del Fréjus. È tutto, appuntamento a tra un'ora. Tutti convocati. Tutti convocati sempre e ogni giorno, 800 24 00 24, se no non mi diverto. Allora, Gabriele Parpiglia, coautore di Balotelli a Crest'Alta, ci ha raggiunto al telefono, Raffaele Panizza è qui, abbiamo una domanda sul tavolo e chi risponde? Qual è la domanda? Infatti, no, era una considerazione sul fatto di dare troppa importanza ai valori. Non lo so. No, era, la questione sì, era se non fosse stato così forte sul campo, non si sarebbe parlato così tanto di lui in questi termini, non si sarebbero scritti dei libri su di lui, eccetera. Che dite? Ma io dico che la storia, e chi leggerà il libro capirà che vale tutto anche con qualche centinaio di gol in meno, e per quanto emblematica di un certo crescere in Italia. Poi, detto questo, ovviamente. Vai, Gabri. No, Balotelli è un fenomeno che si alimenta da solo, nel senso, noi potevamo pure non scrivere il libro, che tanto lui avrebbe fornito materiale mediatico, materiale da ufficio stampa, materiale di comunicazione da solo. Basta guardare che l'ultima ballottellata risale esattamente a ieri pomeriggio, quando si è presentato al centro go-kart in provincia di Monza e voleva fare un giro col card, e gli hanno detto che per contratto mi è caduta la linea. Non per contratto, ma mi è caduta la linea lo stesso. No, volevo farvi sentire, adesso la riprendiamo, perché sono curioso di sentire questa storia del kart in provincia di Monza da Gabriele Parpiglia. Però Balotelli, ad esempio, Balotelli è anche dichiarazioni come queste sul Bayern di Monaco. Senti, per arrivare a battere il Bayern, che sembra un'impresa, al prossimo Milan, che cosa serve secondo te? Serve la prossima partita col Bayern? Chapeau, cioè, quanti ti rispondono così? Renzo dovrebbe andare a fare un programma con Renzo Arbore, sai, i filosofi dell'ovvio. Sì, sì. No, ma non è che ti dicono, ma ci manca molto per arrivare al Bayern di Monaco, dobbiamo crescere. No, quanto ci manca per arrivare al Bayern? La prossima? Sì, sì, no, ma infatti lui è un nemico. Give it to me. È un nemico del concetto trito. La zucca funziona, ma non c'è dubbio. È tornato che... Gabriele per questo. Allora, siamo rimasti ai Carta Monza. Sì, stavo dicendo che è un fenomeno che si alimenta da solo. Basta dire che ieri pomeriggio ha dato spettacolo ai Carta Monza, presentandosi con la volontà di voler guidare un go-kart, ma per contratto non avrebbe proprio potuto, e allora gli ha fatto fare un giro con la Ferrari. Oggi la notizia è su tutti i giornali, cioè, nel senso, noi avevamo pensato di scrivere il libro per il mercato inglese, poi è arrivato in Italia, ma in ogni caso, a prescindere dal fatto che abbiamo scritto un libro o meno, lui è un fenomeno che ha riportato un vecchio divismo che forse c'era, non c'era in Italia dai tempi di Maradona, e che comunque continuerà, anche se noi siamo fermi, anche se non scriviamo, a dare del materiale ugualmente a giornalisti, media, social, da solo. Sì, no, ma anche perché su questo libro ha riportato, e volevo arrivarci, anche quella famosa sentenza di dopo Inter-Juventus. Dopo no? Inter-Juventus, sì, sì, sì, siamo nel... Guarda, me lo sono segnato perché non mi ricordo tutto a memoria. 18 aprile 2009, poi tra l'altro il terribile aprile, perché i primi bu furono sempre di un aprile. Sostanzialmente Mario entra in campo e partono il famoso coro per la prima volta: non esistono negri italiani. Perché poi bisogna dirlo scandito com'è in uno stadio: non esistono, sono pugni, no? E allora poi sono pugni, che però sentiamo, attenzione, che però sentiamo dagli anni 70, a uno stadio intero così io non me lo ricordo, tremendo. Io mi ricordo il palazzetto di Varese, quando un giorno lontano giocò il Maccabi Tel Aviv, ed è una storia agghiacciante. Mi ricordo anche palazzetti, anche in sport non così mediatici come il calcio, alzare quel coro. Comunque il buon Giampaolo Tosel, che è il giudice sportivo, si segna i momenti in cui sono partiti i cori "Non esistono negri italiani". Minuto quarto, 26esimo, 35esimo, 41esimo, 42esimo del primo tempo, 11esimo, 19esimo, 22esimo, 25esimo, 30esimo del secondo tempo. Quindi lui, per esempio, si è giocato a 18 anni e mezzo la sua partita. Così, e da quel momento, nell'indifferenza della FIFA, Platini che dice "ma sì, ma cosa sarà mai", Cobolli Gigli che dice "ma sì, insomma, dai, insomma, non puniteci la squadra", Abete, la FIGC, cambia l'articolo 26 del regolamento federale e finalmente l'ingiuria razzista e territoriale, cioè non si può neanche dire napoletano di puntini, sì, puntini adesso, sì, che sì, il campo sì, viene sì, squalificato, sì, sì, sì, cose che prima non succedevano. Quindi c'è la legge Bosman, vabbè, che è un po' importante per far girare liberamente le merci calcistiche per l'Europa, ma in Italia c'è la legge Balotelli sulla discriminazione all'interno degli stadi. Forse questo, tanto per dire, forse un contributo l'ha dato, oltre ad aver vinto anche gli scudetti, le cose, perché non è che non ha vinto nulla. No, ma poi è ancora molto giovane e secondo me il meglio deve ancora venire, come cantava qualcuno. Dal punto di vista del giocatore, sto dicendo, Paolo da Rimini. Paolo c'è? Se non c'è Paolo da Rimini, c'è Luca da Modena. C'è Luca da Modena. Pronto? Dica. Buongiorno Carlo, grazie per avermi convocato. Senta, io volevo sinteticamente un suo, se è possibile, pronostico per lo scontro salvezza di stasera a Torino-Genoa ed eventualmente, se posso aggiungere una mini domanda, secondo lei il futuro di Angelone Ogbonna? Grazie mille, l'ascolto per radio. Allora, secondo me Ogbonna va al Milan. Lei è cattivo nel chiedermi i pronostici, perché sa che non ne indovino uno e quindi andrà immediatamente a scommettere su quello contrario. Torino-Genoa, secondo me Torino l'ho visto molto bene contro il Milan, meritava forse neanche di pareggiare, addirittura di vincere la partita. Il Genoa reduce da una vittoria larga, facciamo pari. Così scommettete l'uno o il due e siete contenti. Gabriele Parpiglia, sei sempre lì, vero? Sì, sì, sono qui, sono in linea. Senti, ma quanto vale invece? Io dicevo, la mia idea è, insomma, a me interessa il Balotelli giocatore. Su quello che fa fuori, quello che fa fuori mi interessa molto di meno, però è molto mediatico. Come dicevi tu prima, e un ascoltatore sottolineava, ma è giocatore o soubrette o superstar? È un po' tutte e due le cose. Sì, è un po' tutte e due le cose. Io sono convinto di una cosa, Mario si farà la sua Confederation Cup, la farà da protagonista, e sono sicuro che quest'estate, non me ne voglia nessuno, sarà protagonista nuovamente sui giornali di costume, di cronaca rosa, chiamatela come volete, perché credo che finiti gli impegni calcistici, appunto finita la Confederation Cup, lo vedo propositivo in un incontro con la figlia. Questa è una cosa mia, è un pensiero mio, probabilmente mi sbaglierò, ma qualora non fosse così, sono sicuro che i giornali si occuperanno delle sue vacanze, si occuperanno della sua nuova fiamma, e spero positivamente anche di una sorta di riconciliazione con la bambina. Sì, che poi non c'è solo Balotelli. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere, che non c'entra nulla con Balotelli: anche nel nuoto si danno il loro bel da fare, no? Tu tra l'altro scrivi per la Gazzetta, Pellegrini Magnini rottura. Sì, è lo scoop della giornata, l'ho pubblicato io su Chi, e ieri ho dato l'anticipazione alla Gazzetta dello Sport. È rottura, ufficialmente i due in questo momento, mentre noi siamo in radio in onda, si sono lasciati. Federica ha voluto prendersi una pausa di riflessione, una lunga pausa di riflessione, poi conseguenza il caso vuole che un fotografo ha sorpreso Filippo Magnini con la sua ex fidanzata in giro per Pesaro, ma non è questa la notizia importante. La notizia è che Federica in questo momento ha deciso di staccare. È tornata single e quindi possiamo corteggiarla, hai capito? Possiamo corteggiarla, lo faremo certamente. Grazie Gabriele, ti ringrazio. Grazie Gabriele Parpiglia, io ringrazio anche Raffaele Panizza. Grazie a te tanto. Tornate a trovarci, continueremo a parlare, se non di Balotelli, di Ferguson. A proposito, senti questa di Ferguson, posso dirla? Dai, 10 secondi la dico. Allora, una frase celebre di Alex Ferguson: quando un italiano mi dice che c'è la pasta nel piatto, guardo sempre sotto il sugo, perché sono degli smoke screen, dei venditori di fumo. Capito, Alex Ferguson? Grazie a tutti. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Domani alle 2 siamo qui, tutti convocati. Meglio soli che mal accompagnati, non è questo qui, anzi, assolutamente. Però voglio dire. Non è riferito a me. No, riferito a tutti i gufi che girano. Comunque, adesso al di là di tutto quanto. Quali gufi, Presidente? Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sanno come funziona.